Derubi. If you're looking for all the hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Welcome! Ma che welcome, welcome! Ma che freddo che fa, va! ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi! Dai che inizia una nuova settimana, parte una nuova puntata di On The Road con Robin Antoni che vi augura il ben ritrovati e soprattutto ben sintonizzati. Buon inizio di settimana, oggi che è lunedì il 6 di febbraio, credo una delle giornate più fredde, almeno dalle nostre parti. And now, your favorite DJ. Non so più cosa fare per... Io sono poi uno che odia il freddo, un po' come tutti, credo, poi d'altronde. Iniziamo! Dai, il primo disco di oggi, un flashback che vi porto indietro nel tempo. Un disco bellissimo, spero serva la nostra musica a riscaldare un po' le temperature. Lo facciamo con un personaggio straordinario, Pino! Uè, Pino! Si chiama Pino Daniele. Yes, I know. My Way. My Way. Questo è il titolo. Oggi un classico cavallo di battaglia per Pino Daniele. Yes I Know My Way. Inizia così una nuova puntata di On The Road. Appena partiti, mettetevi comodi perché dobbiamo fare subito un attimo di pausa, poi devo accontentare le tante vostre segnalazioni come al solito, e poi anche per oggi parleremo di questo freddo che ha invaso un po' tutta l'Italia dal nord al sud. Parleremo anche dell'ultimo weekend di questo campionato che, porca la miseriaccia, non abbiamo sfruttato al meglio. No, sto parlando della Juve naturalmente. ovviamente non ha sfruttato al meglio, visto che gli altri hanno pareggiato, la Juve poteva anche fare qualcosina in più. Ne parleremo dopo, naturalmente, con il nostro supervisore, il nostro Rambo. Ma intanto, questo è un disco bellissimo. Lei si chiama Adele, Turning Table. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hug me. No, I won't ask you, you to just desert me. I can't give you all you think you gave me. Time to say goodbye to turning tables, to turning tables. Under haunted skies I see you. Ooh, where love is lost, it goes. Sempre ostinatamente l'ottimismo serve, è quella spinta in più. Se un volto si accende è un fatto importante, il mondo si arrende se sorridi tu. Abbasso i malinconici, il pianto dei nostalgici, i pessimisti cronici e chi non si ama più. La vita cambia se c'è chi cambia, tira fuori la grinta, un bel respiro tu. Rispondi a quei problemi con la serenità, la forza di un sorriso, il tuo segreto è qua. Più slancio ai desideri, ai sentimenti veri, sali fin dove arrivi, ma non fermarti là. Risparmiati una lacrima per la felicità. Sorridere sempre, coraggiosamente, bisogna avere fede, pazienza ed ironia. Si affannano gli uomini, si arrabbiano e disperano, ma se la luce incontrano, chi li ferma più? La vita è tanta che ti spaventa, vita che ti conquista se la saggi tu. Provoca, ti accende, ti sbatte qua e là, inventala, difendila, lei ti ripagherà. Seguiamo quel sentiero, intoniamoci al coro, leggeri quei pensieri, lasciati noi. Sorridimi, sorridimi, non ti fermare mai. Sali fin dove arrivi, che poi ti sostengo io. Ridere per vincere è qui il segreto mio. Questo è il ritorno del capo Sorcini, Renato Zero. Sorridere sempre, che bella che è sta canzone. Ah, di buon auspicio anche in un periodo del genere. Chi non sorriderà sicuramente il capitano Schettino. Vi spiego perché. Perché il cacolo della procura di Grosseto, che ha presentato ricorso contro i domiciliari concessi al capitano Schettino, è preciso e rigoroso. E allora, 15 anni per omicidio colposo plurimo, 10 anni per il disastro del naufragio, 8 anni per ciascuno, sentite, 8 anni per ciascuno dei passeggeri abbandonati e morti in conseguenza del naufragio, in totale fanno 2697 anni in carcere. Cioè, voglio dire, messo avvocato, ma uno sconticino lo si può anche fare, magari che si arrotondiamo a 2005. E allora, per il PM, come spiega il Messaggero, esiste un concreto pericolo di fuga ed è per questo che ha presentato ricorso con il quale chiede di rimandare in carcere il comandante. Oggi il Tribunale di Firenze deciderà sulla questione, i giudici dovranno decidere anche sull'istanza presentata dai legali del capitano, che chiedono l'annullamento dell'ordinanza domiciliare, addirittura proprio partendo dai contenuti del provvedimento emesso dal GIP. L'evento commesso da Schettino, sottolineano gli avvocati, è l'unico per dimensione, quindi implicitamente qualificato irripetibile. Vale a dire che si escluderebbe la possibilità di recidiva dal momento che la Costa Crociera lo ha anche sospeso. Certo, non potrebbe fare più un disastro del genere. Il procuratore capo sostiene che già la notte del naufragio Schettino cercò di scappare dall'isola del Giglio, cosa che non gli riuscì soltanto per una serie di circostanze, e l'aver abbandonato la nave, sottolinea sempre dalla procura, è indicativa della tendenza a provare una comoda via di fuga dai propri doveri sempre e comunque. Quindi sappiate che probabilmente Schettino sarà in carcere 2697 anni. Poi per buona condotta potrebbero anche accorciare i tempi al 2005, o no? Di Boy George, si chiamano Culture Club, e questa è una canzone che ci porta indietro nel tempo, The War Song. Ogni tanto sapete che ci piace, no? Ospitare quelli che sono i successi del passato, anche se poi abbiamo una finestrella che ospita per l'appunto i grandi successi, devono essere tali per entrarci di diritto. E da un disco vecchio ad uno nuovo, quello di Mario Biondi. The sky smiling at me, skies do I see, yeah. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining

Bravo di Laura Pausini, questo è il titolo, semplicemente bastava, bastava richiesta al nostro profilo Facebook CRM Radio, approfittatene fra l'altro per richiedere la vostra musica, lo potete fare anche tramite il nostro indirizzo internet CRM Radio, dove c'è l'apposita casella, la finestrella dove potete richiedere la vostra musica, mandare i vostri saluti. A proposito, devo salutare Massimo, mi ha detto che sono andati a fare un giro fuori in montagna in Svizzera, naturalmente meno 17 gradi, sembra di essere in Siberia, mi scrive, anche grazie al vento. Vi porto ancora a ballare uno dei vecchi successi intorno agli anni 80. Poi i miei esordi in discoteca quando ho iniziato a fare il disc jockey, quando si suonava questa musica, mamma mia che bella che era. Lui si chiama P. Lion, e questo credo sia uno dei suoi

però nel salutare Gaetano mi sono dimenticato di salutare anche Marcella. Questa giornata fredda, non so quanto sia la temperatura adesso, ma credo saremo intorno ai 4-5 gradi, non di più proprio. Ho voluto esagerare durante il pomeriggio, ma credo che scenderà ancora. Effettivamente gli addetti ai lavori avevano detto che anche dalle nostre parti la temperatura sarebbe scesa notevolmente, avrebbe avuto questo picco verso il basso. Va bene, va bene. Ma tanto non vi preoccupate, perché poi a riscaldarvi ci siamo noi, c'è la nostra musica, le vostre segnalazioni, come in questo caso Neck. È ancora presto adesso, dai, parliamo ancora un po' di noi. Però è un pretesto e tu lo sai, per dare un senso ai vuoti tuoi. Sera. Andiamo ancora avanti tra la noia e i rimpianti inutili. Sembriamo fuochi spenti e per non perdersi nei venti siamo qui. Così. Non hai scudi di parole, io non voglio far. Che freddo che farà adesso a Gangi. Sai che non si sia ghiacciata anche la tastiera, Antonella, vero? No? Lei che ha richiesto la canzone di Neck, Vulnerabile. Un po' in tutte le alte Madonie, adesso è arrivata la neve, è arrivata copiosa, ce n'è tanta. Anche sui lo vedo dai commenti su Facebook di persone che magari vanno in giro poi con le auto. Mi raccomando ragazzi, state attenti, anche se poi con la neve non è che puoi prendere grosse velocità, anzi ci si diverte, lo facevamo noi anche noi da ragazzini, anche con le bici, abbiamo fatto con le vespette, con i motori, mamma mia che divertimento, poi arrivare a casa congelato però felice e contento. E allora sarà contenta anche Rihanna, perché ha cambiato look. Fino a qualche giorno fa aveva capelli ricci, crespi, castani soprattutto, oggi invece la vediamo liscia e bionda. Questo è l'ennesimo cambio di look per Rihanna, che ha prontamente postato le sue ultime immagini sul suo profilo Twitter. La camaleontica cantante ha detto di essersi schiarita per la prima copertina dell'anno, e così l'altra sera si è presentata ad una partita di basket a Los Angeles sfoggiando questa sua nuova chioma platinata. Le pettinature che le ha provate davvero tutte, dal corto al lungo, dal liscio al riccio, passando per i colori più disperati, dalla tonalità bruna a quelle rosse senza problemi. Sempre più eccentrica, Rihanna continua a mettersi in vista sul social network, posando foto sexy e private. Ora è il turno della capigliatura, senza dimenticare quel tocco di malizia. Eccola in primo piano in una foto che è tagliata, no? In modo tale che lei sembri nuda, lascia sempre libero come si dice? Libera l'immaginazione. E poi ancora di spalle con un paio di short da urlo. Peccato che il Daily Mail, parlando del suo nuovo look, sottolinei la somiglianza con Rod Stewart addirittura. Rosso di Rihanna, sapete che faccio? Visto che abbiamo parlato delle copertine del nuovo album, me la faccio proprio sentire nel nuovo singolo. Si chiama semplicemente You Not One. Che bella sta canzone, a me piace un bel po'. Mette in bella vista lei, soprattutto anche come ballerina. Rihanna! Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from loving. Yeah, you know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't wanna love. Come alive. You got the sweetest touch. I'm so happy you came in my life. Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from loving. Yeah, you know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't want to love me. Ho notato che queste grandi star, no, scelgono sempre i grandi eventi, in particolar modo per esempio adesso Rihanna, per farsi vedere con questo nuovo look, ha scelto per esempio questa partita a Los Angeles, partita di basket, ma spesso usano anche, che so, ieri per esempio c'è stato il Super Bowl in America. E loro, dicevo, cercano questi momenti dove c'è tanta tanta gente, soprattutto tutti i media presenti. Mi porta ancora indietro nel tempo, loro si chiamano Quarter Flash. Oh, belle che sono queste canzoni, mamma mia. Più tempo, com'è? Come il vino, no? Più tempo passa, più buona diventano. Un po' che so, come ieri ho visto Pamela Prati, ragazzi, una 53enne, ha compiuto 53 anni il 26 novembre, ma chi lo direbbe mai? Pamela Prati che è bella più che mai, questo fisico sodo di una ventenne, lato B da urlo, dice, ma che guardi il lato B? No, però a una 53enne non puoi che fare un complimento, un volto senza una ruga, ma magari là, adesso non so se c'è stato qualche ritocchino, forse saranno le sue origini sarde a darle una mano. La soubrette ha sempre detto di essere assolutamente nature, speriamo che sia così, e davvero dobbiamo fare complimenti. Anche il fatto di fiato non scherza, perché lei è apparsa scatenata sul palco, una cosa veramente incredibile, brava e soprattutto... serve a niente far finta che non sia successo niente, 10 minuti per averti ancora mi stringe innanzi a dire una parola, ma forse in fondo è meglio non parlarne, dimenticare un giorno e non parlarne di questo nuovo amore complicato, così importante anche se appena nato. Poi mi sorridi, mi piaci tanto come muovi la bocca, poi mi confondi con la tua ruvida dolcezza. Appuntamento preso col destino, mi avevi lì proprio vicino vicino, in un secondo la rivoluzione. Riuscire a chiudere la porta, ricominciare a chiudere la porta di questo nostro amore siderato, che scava in fondo anche se appena nato. Poi ti nascondi, ma solo poco così posso trovarti. Poi mi confondi con la tua stupida amarezza. Appuntamento preso col destino, aspetto. Non ci sei, ti aspetto. Dai. Alessandra Amoroso, il nuovo Ti aspetto. Adesso un attimo di pausa, poi ancora insieme. State lì, ormai avete scelto la frequenza giusta. Siete su CRM Happy Radio, non siete su Scherzi a Parte. A proposito, potete seguirci anche in video, in streaming, crmpiradio.it. Adesso un attimo di pausa, poi mi abituerò a voltarmi e non ci sarai. m'abituerò a non pensarti quasi mai, quasi mai, quasi mai. Alla fine c'è sempre uno strappo e c'è qualcuno che ha strappato di più. Non è mai qualcosa di esatto, chi ha dato e poi chi ha preso tutto quel che c'era. Non conta più sapere chi ha ragione. Si abituerà, dico si abituerà Zlatan Ibrahimovic a fare il bravo ragazzo, il bravo giocatore, lui è recidivo su queste cose, la Lega non transige, no. Dico le tre giornate, probabilmente poi ci sarà il ricorso, magari una gliela tolgono, ma le tre giornate è soprattutto per quello. È il fatto che hanno un po' calcato la mano, perché lui recidivo l'ha fatto altre volte. Non so se avete visto ieri lo schiaffo che ha rifilato al giocatore del Napoli, ad Aronica. Non deve fare queste cose! Poi ha lasciato anche la squadra in 10. De nuovo a Pierlo. Ma lui l'ha capito subito che aveva fatto la fesseria. Dai che vi faccio ballare un po', visto che fa freddo. Romano e Sapienza, tacata. De tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, Romano esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también.

California kings, you gotta call me sire. Watch me lay it down, and I ain't even tired. Putting work in, and I ain't even hired. Hitting high notes, neighbors thought you joined the choir. She drop it, then wobble it, cause she know that I'm liking it. Turn my lap into a chauffeur, and I spend all day just riding it. Trying to clone that, just to have a menage with it. Just a red light special, but I swear ain't no stopping this. Yelling, go, Sean, go. So shorty, bring it back. Call my curiosity, cause I killed the cat. And satisfaction brought it back. Girl, it's your world, I'm just chilling on the mat. Siamo leggermente in ritardo, però credo che ormai è tutto pronto per il collegamento. Parliamo di sport. Rambo! Ciao, buonasera, dottore! Dottore, il dottorato me l'hai dato tu, Rambo. Ciao, carissimo! Come va, Rambo? Che tempo rompe scatole il tempo. Ah, avevo capito un'altra cosa, Rambo. Il tempo piove sempre. Fa freddo, ma da voi la neve non la fa però, no? Santo Stefano. Ma vale niente, no. Un ghiaccio può fare, canoni. Se mi piove ce l'hai visto. Ah, piove. Vabbè, dai, così si riempiono i pozzi d'acqua. Poi abbiamo, sì, i pozzi d'acqua. Abbiamo le riserve. Abbiamo le riserve poi d'acqua. Le riserve d'acqua. E allora, Rambo, come hai trascorso il weekend? Bene? Il weekend è bene. Il? Bene il weekend. Il weekend è bene, bene. E allora, parliamo un attimino di calcio, di quello che è successo ieri. La Juve, credo, tutte le partite si sono giocate alle 15. Perché vabbè, insomma, ieri ci stava un bello ricordo alla Juventus, come dicevo. Vabbè, ma noi, guarda, la Juve non si può attaccare a ste cose. No, sempre per l'Inter c'è tuo. Milan, o per l'Inter c'è tuo, come dà, tutto tranquillo ieri. No, che tranquillo, gli hanno dato 3 giornate a Ibrahimovic. Che giornata, così poco, io non ce ne lavo un mese. Ma come sei buono, Rambo? Un mese ci dà attenzione. Tre giornate l'hanno confermate. Le giornate, anche Caravelle ci vedo. 3 giornate, effettivamente lui è recidivo a sta cosa, quindi secondo me 3 giornate sono poche. Hai ragione, Rambo. Perché lui queste cose le fa spesso, anche quando era alla Juve. Cioè, questo vuole dimostrare, secondo me, che ancora lui. Beh, altronde non è più un ragazzino, ormai è un. Ma l'ha dimostrato, un giusolo per tutta la ditta, Un? Un giusolo. Per tutta la ditta, è quello che ha il tuo per Ibrahim. Dai. Ma che va a fare? Appena gli appava la testa, si scippava, si fa la testa quattro cose. Rambo! E allora, però noi ieri abbiamo perso un'occasione perché. Vabbè, devo occuparmi. C'era stata servita. L'importante è ir avanti. Certo, però questa occasione c'era stata servita su un piatto d'argento. Il Milan che pareggia. Sì. L'Udinese che ha perso contro la Fiorentina. Sì, vabbè, l'Udinese ormai quando è fuori casa. Ah, sì, secondo me si sapeva. L'Udinese quando arriva al girone di ritorno ha sempre questo calo, soprattutto dovuto al fatto che perde qualche pezzo per la Coppa d'Africa, qualche giocatore va via. E allora, poi bene il Palermo ieri, Rambo, visto? Vabbè, vuole mandare che mandare va bene. Come che l'Inter cavola buona i picchia, basta quattro. Dai, Rambo. Ah, va, certo, quattro dal Palermo, quattro da. C'è la legge del 4 però. Sì, cavola. Infatti io ci bastavo un sacco, ci poteva un sacco per essere quattro pallone. Non ci bastava perché se facciamo un punto per cavola quattro Palermo, basta ieri. Sì, in coppa. Ma la quando veniva, mi ricordo. No, ha perso con Lecce 1-0. Che contavo, cioè, ma in poche parole ha preso un punto in 3 partite, capito? Oh, ma l'inglese è buono. Se prende a rete ne potevo contare, no, sono arrivato a Praia Mare. A 30 gol sono arrivato a l'inglese. E allora, senti un'altra cosa. Roberto, quello importante è ieri ci volò vinto pure casa. Ecco, noi, tu ieri sei stato inviato a San Fratello, è giusto? No, perché... me ne sono andato a Acque Dolci, perché Acque Dolci gioca Acque Dolci, in Campo Neutro. Esatto, ad Acque Dolci, vabbè, per il San Fratello. Ieri c'era questa partita tra il San Fratello Cefalù. Parliamo, 2-1 per il Cefalù. Parliamo di prima categoria, è finita 2-1 per il Cefalù, che consolida questo primo posto adesso nella classifica della prima categoria. Roberto, la Mamertina ha sbagliato due calci del rigore, e che ha fatto? 0-0 in casa. È finita 0-0. Si è fatto parare a due calci del rigore, poteva la futura pro a parare due calci del rigore. Ma come sei informato, Rambo, veramente, guarda. Ma io dopo quando finiscono le partite adesso tutto il risultato come finire. Ma tu sei il numero, ma perché sei allora il mio cronista ufficiale, il mio. Allora Roberto, ci vuole di fortuna pure. È vero, per vincere ci vuole un po' di fortuna. Un po' di fortuna ieri c'è stato, diciamo. Ieri un po' di fortuna per il Cefalù c'è stato, però la squadra consolida questo primo posto in classifica. L'importante è il pallone metterlo dentro la rete. Esatto. Poi alla fine il risultato lo conta. Quello che conta è questo qua. Un'altra cosa importante, ieri la Juve poteva giocare altre due ore, un gol non lo faceva. Secondo me, poi adesso non vorrei dire, però col senno del poi, secondo me ha sbagliato anche qualche sostituzione, Antonio. Vabbè, maestro, ragazzi, però, è stato mangiamante. Ma tu immagina la vittoria di ieri. Andavamo a più 6 dalla. Quando era più. Vabbè, Roberto, ci sarà la prossima settimana, non metteremo il panno. Dobbiamo ancora, la Juve deve recuperare una partita, quindi. Senti Ramalo, già arrivano i saluti per te. Ciao a tutti. Salutami Nadia che mi ha mandato un messaggio. Ciao Nadia. Salutami anche Antonella. Ciao Antonella. Massimo. Massimo. Ti devo fare l'appello ogni giorno, Ramalo. Simone. Monica. Allora, aspetta, come si chiama? Come si chiama? Chi? A Gerardina. Gerardina oggi non è venuta, forse no, c'è la voce ucciaccio, il brutto tempo. Tu vuoi salutare ucciaccio? Una new entry devi salutare. Isabella, saluta anche Isabella. Ciao Isabella. Perfetto, così abbiamo salutato, non dimentichiamo nessuno. Guarda a tutti allora, no? Un saluto per tutti. A tutti particolari. Allora, mercoledì c'è la Coppa Italia, giusto? Risultato prossimo. Tanto da qua a mercoledì noi ci dobbiamo risentire, quindi avremo la possibilità. Vabbè, se invece un gioco, sicuramente. No, come no? Visto che non giocherà in campionato, giocherà in Coppa Italia sicuramente, Rambo. Non lo fa giocare, secondo me. No, secondo me lo fa giocare, altro che. No, lo fa giocare, secondo me lo sospende pure. Almeno che non vogliono punirlo, però credo che il Milan in questo periodo non può permettersi di privarsi di Ibrahimovic, che poi effettivamente il Milan ha dimostrato di essere Ibra dipendente. Dipendente? Sì, come? Allora quando non c'è lui che fa, scusa? L'hai visto ieri, se non segna lui il Milan stenta. Resta da riere. Ha segnato in forza io, resta da riere. Ma infatti, vabbè. Volevo fare un saluto a Francesco, la salumeria, mi domanda sempre di te. Amore, finalmente. No, ma adesso domani, ieri sera ci siamo sentiti su Facebook. L'ho chattato ieri sera, ma adesso ci sei. Io mi raccomando, mandami saluti alla io, tua io, so, io sono impegnato con Stellina già ormai, guarda. Stellina, vuoi Stellina? Giorno della presente, guarda, un'amica mia. Una showgirl, una cosa così. Showgirl, no, una? Showgirl. Una? Showgirl. Showgirl. Che ridi? Roberto, mi fa ridere tu. Mi ha preso quando ho finito fotografia. Allora Rambo, se tu vuoi essere professionale, quando facciamo gli interventi devi imparare bene, sì, l'italiano, le lingue italiano francese, le lingue italiano francese, l'italiano quantomeno francese e inglese, dico, ah. E poi imparare tutti questi termini. Quindi Stellina è una showgirl. Roberto, metti la musica. Va bene, Rambo. Mettimi il sestino. Isa, parla. Cosa metto? Isa. Che Isa? Vai, Isa. Che devo mettere? Il sestino. È la canzone. Ciao, caro. Come si intitola la canzone? Te la ricordi? La canzone è Maro Vuoto. La domenica c'è la chiesa e la deve stare buttando riposare. Hai sei o te? Sei o te? Sei o te? Sabato c'è la chiesa. E domenica che fici, Maro Vuoto? Dai, ciao, sì, ciao caro! Salutami Francesco! Ciao caro! Ci vediamo presto, diglielo! Io ti faccio degli attuali e ti faccio tutte cose tu. Anzi, devo fare conoscere due persone. Anche? Qualche sera ti porto in una delle mie serate. Devo farti conoscere due: Stellina e Giuseppe. E poi? E Giuseppe. Stellina e Giuseppe, quello? Sì. E poi ti faccio. Vedrai. Mi sei famoso, sì. Vedrai, io no. Giuseppe. No, prima c'è la pubblicità. Chiamami la pubblicità, Rambo. Pubblicità. A dopo, ciao. On the road. Flashback. Male che uno sentendo questa canzone ti viene subito in mente il film la quale fece la colonna sonora, ovvero 9 settimane e mezzo. Infatti proprio di quello volevo parlarvi, perché è un omaggio al regista produttore che si è spento all'età di 69 anni a Santa Monica in California, Zalman King, che firmò per l'appunto questa pellicola. Il produttore cinematografico Zalman King nella sua carriera fu anche attore, sceneggiatore, regista, ma è diventato celebre soprattutto, dicevo, per aver finanziato pellicole erotiche, tra queste il film cult 9 settimane e mezza, diretto da Adrian Lyne ed interpretato da Mickey Rourke assieme a Kim Basinger, di cui era, oltre che produttore, anche sceneggiatore di questo film. Quindi un omaggio a Zalman King l'ho voluto fare con questa canzone, dedicando naturalmente, soprattutto dedicando, omaggiandolo con la colonna sonora, questo gran bel pezzo di disco, che avete capito, il pezzo di il disco di Joe Cocker, You Can Live in Your Head One. Sì! Ho avuto un uomo che era forte, ma ce n'è uno che non ho scordato mai. Lui sapeva amare, solo amare, ed io son fuggita via. Ho avuto un uomo che era bello, ne ho avuto un altro che raccontava mille storie, ma ce n'è uno che non ho scordato mai. Lui sapeva amare, solo amare, non vi sto dicendo una bugia. Ho toccato il cielo, sai, come un aeroplano. Ho sfiorato il sole, sai, sopra sul divano. E poi giù, più giù. Un uomo che ho cercato sempre invano. Se c'è qualcuno che sa dirmi dove sta, mandatemi a chiamare e questa sera vi regalo tutto quel che ho. Quando tocchi il cielo, sai, come un aeroplano, e poi sfiori. Qualcuno che sa dirmi dove sta, mandatemi a chiamare e questa volta ve lo giuro io non me ne andrò. Ho toccato il cielo, sai, come un aeroplano, ho sfiorato il sole, sai, sopra sul divano, e poi giù, più giù. Emma Marrone, questa sua, ho toccato il cielo. Adesso dobbiamo lasciarci, ma per qualche minutino, non di più. Poi tornerò ancora con un classico, un flashback, e poi saluti finali, perché sapete che il mio appuntamento va dalle 17 alle 19 in diretta, poi la replica da mezzanotte alle 2. Un attimo di On the Road. Flashback. Take her out, cocaine. che canzone. Mitico Harry Clapton, Slow Hands. Questo era il titolo, semplicemente un classico proprio. Va bene, ancora la possibilità di ascoltare un disco, il prossimo, un disco nuovo di Madonna. Però prima di mandarlo il disco, di farvelo ascoltare, volevo parlarvi di questa sua apparizione al Super Bowl ieri. Fra l'altro il Super Bowl che è stato vinto dai Giants sui New England Patriots per 21-17. La regina è tornata, per rimarcarlo Madonna si è presentata all'attesissimo show in occasione, dicevo, del Super Bowl, vestita da Cleopatra, un'esibizione sfarzosa durante la quale ha presentato questo nuovo singolo che adesso vi vado a presentare. Non sono mancate però le polemiche per il dito medio esibito in mondovisione durante la canzone da Mia che l'accompagnava, una delle ospiti che duetta con Madonna durante il brano. Non siamo certi ai livelli del famoso capezzolo che sfuggì a Janet Jackson, ma certo è che il Super Bowl è sempre l'occasione per qualche forma di scandalo più o meno grande, anche perché Mia il dito medio lo ha accompagnato alla frase I don't give a shit, oppure che tradotto non me ne frega un mazzo, ecco. Il tutto sfuggito naturalmente al sistema di censura dell'NBC, ed è scattata la bufera, non poteva essere altrimenti. Ma questo non è stato l'unico motivo di polemica attorno all'esibizione di Madonna, a parte il gusto kitsch di costume e coreografie con lei in stile Cleopatra contornata da centurioni. E come aveva predetto Elton John, la pop star ha fatto massicciamente ricorso al playback, o almeno così molti sospettano, come testimoniato dal diluvio di messaggi su Twitter che l'accusavano in tal senso. Oltretutto, durante l'esecuzione di Music, Madonna ha anche rischiato di fare un bel capitombolo in mondovisione, poi scampato il pericolo, è riuscita anche ad arrivare in fondo con una grande con un bel duetto interessante, soprattutto duetto con CeeLo Green su Lucky Prayer. Insomma, un po' di ruggine era il minimo che si potesse aspettare dopo tanta assenza da parte della panterona e in fondo anche a 53 anni, con così lunga carriera alle spalle, persino le regine riescono ad emozionarsi. Il brano in questione ve lo faccio sentire subito, è il suo nuovo lavoro, si chiama Give Me All Round Living. Things too far. I see you coming and I don't wanna know the name. You, me, Madonna. I see you coming and you're gonna have to change the game. Oh, you, you wanna. Would you like to try? Give me a reason why. Give me all that you got. Maybe you do fine as long as you don't lie to me and pretend to be what you're not. Don't play the stupid game 'cause I'm a so like fish guys. And I won't get you this. It's supersonic, bionic, uranium hit. So I break them off quick. Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world. All Your Lovin', questo è il nuovo disco di Madonna ed è l'ultimo di oggi per quanto mi riguarda. Noi ci risentiremo ancora domani a partire dalle 17 per una nuova puntata in diretta, invece stasera per la replica vi rimando a mezzanotte. Quindi è davvero tutto, una fredda serata non poteva essere altrimenti, e naturalmente un bacione, a domani, mi raccomando, fate i bravi.